Ninna nanna mio bambino, ninna nanna ninna oh, il tuo corpo piccolino coi miei seni crescerò, ancor piccolo il tuo cuore crescerà con il mio amore, ogni giorno il mio parlare ben ti guiderà all'altare. Ninna nanna pupo biondo, ninna nanna dolce re, non si trova in tutto il mondo pupo bello come te. La culla è vuota, incubo meschino, svegliami pianto, piangi mio bambino, svegliami pianto, non aspettar mattino. Donna, cos'è questo tuo parlare? Da questo incubo non ci si può svegliare, tuo figlio più non c'è, ma non ti lagnare, egli sta con me e non può ritornare. L'anima innocente la puoi immaginare su verso il cielo nella pace eterna. È tua morte questa voce scura, tua questa voce che fa paura, scampa mio figlio dalla sepoltura, abbraccia sua madre, anima matura, per te scambio equo, per me conveniente, scampa ti prego l'anima innocente. Taci donna taci, non sai di che parli, tuo figlio giace sotto la terra dura, tu di morire non hai paura, ma salvare il bimbo non osa natura. Ma non lagnarti forte, non ti lagnare a voce, così sciolta va il tuo lamento, ma nessun l'ascolta. Povera donna taci, è cosa stolta cercar d'opporsi a me che son la morte. O morte dimmi, dimmi solamente, rivedrò un giorno il mio bimbo ridente. Quando scadrà la mia ultima ora, mi porterai dove lui vive ancora. O morte dimmi, dimmi solamente, rivedrò un giorno il mio bimbo ridente. Se ad accudirlo non ci sarò io, con lo stesso amore ci penserà Dio. Tu mi stai chiedendo ciò che non posso dire, ciò che a nessuno è dato di sapere, decidillo tu, ciò che vuoi sentire, decidi e rimani con il tuo parere. Vattene voce, lasciami sola, lasciami desta sulla culla ancora, a cantar canzoni al mio piccolino, a cantar canzoni al mio piccolino.